success. Accepting the hybridity of my being. I am an oracle of the goddess. Pretty much predicting bullshit unseen. I am stranded in Mendocino, California, with no money and no ecstasy to sell. Basically, fuck my life. I know, I already tried summoning the spirit world with my pocket Ouija and only got an answer from Roy Orbison. As if I'm even going to cry over you right now. What is that in the distance? I hate walking on the freeway. Imagine a poppy field. Be calm. Laying outstretched, each pupil magnetically pulling each twinkling airplane closer to my self-destruction. Pissing away the hours, I am a disciple of the drift. A hitchhiking priestess attracting serial killers on the lam. It really is a long way to Hollywood. And excuse me, but my Mercury is in Pisces, so I might sound a bit dreamy. Solid things can be nomadic, but never movements. I am an apocalyptic angel of death, with plans to blow up New York City and Beverly Hills. I bet you've never seen a terrorist with such killer lip gloss or such killer legs. Fuck me! This heat is making my new stick and poke itch like shit. I squint into the sun. Oh, God. I realize my memories of Neptune are real. What the fuck am I doing on Earth? Fuck you, you fucking asshole! This bug-eyed ranchero almost runs me over. You tweaking meth head. Mind you, I have on leather shorts and smell like ball sweat. In recovery, I close my eyes and cast a spell to the wind, quietly chanting, quietly wanting, quietly wishing, please take me home with you tonight. I said, please take me home with you tonight. Please take me home alone with you tonight. I said, please take me home alone with you tonight. Eccoci di nuovo qui, come ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 19 in avanti, su Radio Lotto Tutto l'Anno, una radio a cura di Non Una Di Meno Milano. Come diciamo sempre, questo Lotto Tutto l'Anno non è un titolo lavorista, ma nasce dal fatto che la lotta è cura e la cura è un lavoro che se ne dica da visibilizzare e sostenere. Ed è proprio questo tipo di attività oggi sembra più che mai ad emergere come l'unica cosa urgente da fare tutti insieme. A proposito di questo, vi invito a sostenere l'appello di alcune ricercatrici italiane uscito su In Genere la scorsa settimana, che si chiama Verso una democrazia della cura. È un appello, diciamo, sull'emergenza coronavirus e il suo impatto sul lavoro domestico e di cura. Il decreto Cura Italia infatti sembra, dimenticarsi delle tantissime assistenti familiari, domestiche e babysitter che ogni giorno garantiscono la cura di anziani e bambini, e il decreto non prevede misure specifiche per queste lavoratrici e questi lavoratori. Ma, come dice l'appello, oggi più che mai abbiamo bisogno di riconoscere economicamente e socialmente il valore del lavoro domestico e di cura, come anche di immaginare nuove forme più eque di democrazia che riconoscono il ruolo cruciale della cura nell'ottica della creazione di una vera caring democracy e, aggiungo io, forme per redistribuire questo lavoro. Fatta questa promessa, oggi parleremo di dispositivi medicali DIY e del loro impatto, diciamo, in questi giorni di emergenza sanitaria, ovvero Parleremo di comunità di maker che si stanno organizzando per disegnare, progettare, suggerire e anche distribuire dispositivi medicali che sono oggi carenti all'interno di strutture sanitarie. E perché facciamo questo? Cioè, perché diciamo sono carenti, perché fanno questo le comunità dei maker? Certamente perché siamo in un'emergenza e quindi diciamo le cose si comprimono, ma principalmente le carenze sono dovute ai decenni di tagli alla sanità pubblica che hanno di fatto comportato tagli alle strutture, alla ricerca, al personale e dunque anche alla capacità interna di strumenti e dispositivi. Quindi parleremo di cura e tecnologie aperte, cioè anche di open source o di protocolli di ricerca e di realizzazione aperti, dove possiamo dire che il metodo garantisce una partecipazione collettiva alla costruzione del dispositivo in questione e una verifica più democratica della sua funzione e necessità. Ovviamente queste sono affermazioni, diciamo, non sempre vere e durante la trasmissione ne parleremo con una fantastica ospite che è Zoe Romano, che dopo vi presento. Io sono Madù, ma prima di partire, come sempre, diamo le nostre informazioni di servizio necessarie. A green sofa, a black chair, white drawer, and beautiful bookshelf, coffee table and TV, the light is the moon. Soft bed, the floor and the wall. Hold this together in my house. When I was mopping my floor, and suddenly I became my mop. My mop. I don't know what happened. I just became this sweeter swiper, not so hyper, but dry. Ay ay ay. I asked myself, do you want me to mop my floor? And I said yes. I was rolling on the floor, swiping away, and then, unexpectedly, I became my floor, all in dust. So comfortable. I stood up, but my sofa was stuck. I was so comfortable. I am becoming my heart. Quella che abbiamo appena finito di ascoltare è una canzone dal titolo I Am Becoming My House, che mi sembrava abbastanza appropriata per questi domiciliari forzati, ed è una canzone di Hrefna Lind Larosdottir, una performer islandese le cui canzoni popoleranno questa puntata, a parte la nostra sigla in entrata che come sempre è di Miki Blanco. Allora, informazioni di servizio. Ripetiamo come sempre che diciamo, per molte donne stare a casa non è affatto un'indicazione rassicurante, quindi segnaliamo il numero del CADMI a Milano, che è 02 55 01 55 19, e insieme le ringraziamo. La seconda informazione è il canale Telegram di Obiezione Respinta, che continua a segnalare, nonostante gli attacchi della destra, agli ospedali dove si continua a garantire l'interruzione volontaria di gravidanza. Il canale è t.me/aborto/emergenza-covid-19. La terza cosa da segnalare, come sempre, è contribuite alla radio inviando i vostri audio sulla mail, che è nonunadimenomilano@gmail.com. Inviateci audio sulle vostre storie di quarantena, sul lavoro in quarantena, sull'amore e sull'odio in quarantena. I nostri social sono sempre nonunadimeno-o.milano. E l'ultimo, diciamo, l'ultima segnalazione che mi viene da dare oggi è che, mi raccomando, per ascoltare questa puntata è obbligatorio l'uso della mascherina, da quanto riferito dalla Regione Lombardia ieri. Pare che vada bene anche il pannuello fucsia, quindi siamo avantissimo, perché il tutorial è online da anni sul nostro blog, che è nonunadimenomilanoblog.wordpress.com. To my house. This is my kitchen. And this is my table. And this is my chair. And this is my corner. And this is me in my corner. Here I like to sit down and think about my life. Think about my past and think about my future. Think about my life. Think about my past and think about my future. I really like my future. I love my life. I love my coffee. I like my coffee. Here I sit down with my coffee. Would you like to have some coffee? Coffee makes the conversation between me and you. Coffee makes the conversation between me and you. Coffee makes the conversation between me and you. Coffee makes the conversation between me and you. I am making some mocha. I like the smell. I like Americano. I like macchiato. I love double espresso, cortado, ristretto, cappuccino, frappuccino, caffè latte, ole. Be my guest and grab a cup. Would you like to have some milk? Coffee makes the conversation between me and you. Coffee makes the conversation between me and you. Coffee between me and you. Coffee makes the conversation between me and you. Sometimes I drink coffee with cold milk. And sometimes I drink coffee with foam milk. Sometimes I have coffee with cream. And I really like this shiny silver machine. This is nice. This is very nice. This is so nice. Very nice. So nice. It's very nice. Nice. This is nice. Ecco, e a proposito di Coffee Makes a Conversation, oggi siamo qui con Zoe Romano, ricercatrice indipendente e maker. Ciao Zoe, vediamo se ti si sente. Ciao, buonasera. Eccoti. Allora, questo mitico gruppetto è il gruppo di Cure Ribelli, un percorso di ricerca che si è attivato circa 3 anni fa, intorno a un progetto sul rapporto tra tecnologie aperte, comunità e cura, progetto che poi appunto è sfociato in un libro che si chiama Cure Ribelli, tecnologie aperte per una cura come bene comune. E il libro, oltre diciamo a noi due, vede anche la presenza e le penne di Serena Cangiano, Francesca Bria e Valeria Graziano. Allora, diciamo subito che il libro parte da un ragionamento collettivo su che cos'è l'innovazione sociale digitale, questo fenomeno di cui si parla molto in questi anni, che riguarda un po' l'uso, l'impatto e le innovazioni tecnologiche dal, per, nel sociale, no? Questo libro però parte dal presupposto che sia più importante definire cosa voglia dire innovazione sociale digitale, cioè che cosa rappresenta, in modo da posizionarla in alcuni ambiti e o pratiche e non in altri, no? Ovvero spingere questo termine a disegnare un po' il mondo che vorremmo vedere. Infatti questi processi, spesso legati a modelli di open source e in generale a questa idea di scienza aperta e partecipata, quindi senza recinti né restrizioni all'accesso, non dobbiamo dimenticare che sono usati sia da istituzioni pubbliche sia da istituzioni private, no? Questo vuol dire che per molti aspetti open source e anche la gratuità, per esempio, sono parti integranti del capitalismo contemporaneo e aspetti spesso cruciali delle sue stesse dinamiche, no? Che, cioè, quindi amplificano la, diciamo, la retorica del libero mercato. Ad esempio, per prendere un esempio, esiste un'abbondanza di piattaforme proprietarie, quindi gestite da aziende private, che stanno promuovendo la raccolta collettiva di dati biomedici, che poi rivendono, no, subito dopo, come spesso ci ha raccontato nei suoi libri Alessandro Delfanti. Questo per dire che, insomma, navighiamo in un'area in cui diciamo ci sono evidenti problematiche che sono relative alla privacy, ma anche alla distribuzione del valore prodotto e forse in primis anche relative al lavoro gratuito che c'è dietro. Un altro aspetto su cui diciamo il libro pone l'accento è la dimensione storica e di lotta, no, dell'incursione di questi soggetti non convenzionali nella ricerca scientifica e medica, come per esempio i cittadini, i pazienti o oggi gli utenti web, no? Quindi questa cosa non è una novità, queste incursioni hanno da sempre sfidato sia i modi in cui si fa la ricerca sia l'organizzazione della sua produzione. Per esempio, se usassimo il framework di Silvia Federici, la violenza contro le donne dall'inizio del capitalismo fino ad oggi può essere letta come una guerra da che, diciamo, le privatizzazioni e le recinzioni della conoscenza hanno aperto, muovono contro la capacità di tenere invece insieme le comunità, difendere un'idea non privatistica della salute pubblica, come anche dei territori e dei beni comuni. Per esempio, nello specifico, Valeria Graziano nel libro ci parla diciamo della capacità dei movimenti sociali di organizzare autonomamente le proprie conoscenze pratiche rispetto a diversi campi dell'assistenza medica, anche molto prima della svolta digitale, appunto. A partire da qui mi piacerebbe, Zoe, che tu raccontassi un po' diciamo questo nesso tra tecnologia e cura di cui abbiamo parlato nel libro, ma che in generale direi è un tema sempre più centrale su cui discutere oggi. Sì, è un tema, il rapporto tra cura, salute, benessere e tecnologia è un tema ampissimo. Oggi non abbiamo il tempo di toccare in modo approfondito il tema perché a me interessa molto sempre partire dal passato e arrivare al presente per esplorare una sorta di genealogia della relazione tra salute e tecnologia. Ma secondo me oggi quello che possiamo provare a fare è leggere questo attraverso una lente che passa appunto attraverso il progetto che ci ha coinvolto direttamente in questi ultimi 2-3 anni e che ha ragionato sul tema dell'innovazione sociale digitale, che per gli amici, per le amiche ha un diminutivo che è DSI, Digital Social Innovation. Quindi diciamo il termine sì è un'etichetta, come spesso accade che la Commissione Europea crei queste etichette per raggruppare tutte quelle innovazioni che nascono dal basso, che nascono da gruppi informali, tra i cittadini, e che usano gli strumenti digitali per migliorare la vita delle persone. E perché gli strumenti digitali gli permettono di avere più impatto, di entrare in contatto con più persone, riuscire a intercettare più persone e coinvolgerle in una co-creazione anche di soluzioni. In uno dei primi articoli che avevamo scritto, principalmente se ne era occupata Valeria, ma poi un po' tutte, come in questo libro, un po' è stato affrontato parlandone sempre molto insieme, no? Prima poi di buttare tutto nero su bianco, ci eravamo soffermati sul ragionare che cosa non rappresentasse DSI, che cosa non è DSI, che cosa non è innovazione sociale digitale, altrimenti potrebbe sembrare un'etichetta troppo generalista. In particolare non volevamo portare avanti un'idea di innovazione che celebrasse acriticamente ogni nuova soluzione tecnologica che appare all'inizio potenzialmente una buona idea, perché spesso abbiamo visto, specialmente nell'ambito di tutte le narrative delle startup, basta che sia una cosa nuova è già una figata, no? Perché in realtà perché per poter giudicare che cosa è veramente un'innovazione, in primo luogo è necessario coltivare un'eccellente memoria collettiva di ciò che è stato fatto, sia prima che anche in altre parti del mondo, perché non è sempre una questione temporale del prima o del dopo, ma anche chi in questo momento sta ragionando su questi temi e chi sta creando delle soluzioni. Spesso infatti si tende un po' a perdere la memoria rispetto a cosa ha funzionato nel passato e che cosa bisogna continuare a mantenere nonostante alcune innovazioni possano a prima vista semplificare alcune cose. A volte nel lungo periodo questo non succede, oppure le esternalità negative arrivano a superare i benefici che l'innovazione stessa porta. Quindi è sempre bene avere uno sguardo critico che continua a ragionare su quello che porta la tecnologia e l'innovazione. Il tema del digitale e della tecnologia infatti ha bisogno un po' di uno sguardo disincantato, superando quella dicotomia che spesso vediamo. Da un lato c'è una visione della tecnologia come qualcosa che fa paura, come intrinsecamente pericolosa perché è sconosciuta, oppure che è responsabile per tutti i mali della società, oppure dalla parte opposta, al contrario, no, una panacea che è in grado di curare tutti i tipi di problemi, indipendentemente da quello che realmente fa. Ecco, a noi piace esplorare, e con questo libro abbiamo un po' cercato di portare avanti anche questo approccio, esplorare la tecnologia con uno sguardo disincantato, toccarla, smanettarla, costruirla, entrare in relazione. Sì, lo vedo come un processo di dialogo continuo, di dialogo con i suoi strumenti che possono essere, diciamo, potenzialmente utili a costruire il mondo che vorremmo abitare. Questo è un po', diciamo, il mondo anche e il tema che vorrei trattare in questa puntata che viene e che ci porta a parlare del mondo dei maker. Ok, quindi diciamo, oltre tecnosoluzionismo o tecnofobia, e manderei una canzone e poi torniamo sul libro. Eccoci di nuovo. Allora, nel libro, oltre a diversi articoli che appunto affrontano il tema, diciamo, della cura dal basso attraverso specifiche tecnologie, non qualunque direi, ci sono sette racconti di sette pratiche che per noi in qualche modo riassumono gli aspetti cruciali che definiscono diciamo, una specifica interazione tra tecnologie e cure dal basso. Per esempio, gli aspetti cruciali potrebbero essere riassunti in la comunicazione, ovvero la capacità di in qualche modo rimodellare le narrazioni dominanti, quindi gli stereotipi, il concetto di intervento, ovvero non pensarsi come sussidiari, ma mettere diciamo queste innovazioni progettate o conquistate nelle lotte al centro dei dibattiti e anche delle economie disponibili. C'è anche l'idea di comunità, no? Quindi, diciamo, uscire da un'idea di cura che vede solo, non solo, diciamo, i pazienti come solo pazienti, ma neanche come unici interlocutori, quindi un'idea di concepire la salute come una questione che impatta, diciamo, le condizioni di vita di tutto, è una cosa che oggi, diciamo, si verifica ampiamente. Un altro elemento centrale è l'impatto. Quindi non in una sua nozione metrica solamente, ma proprio come una pratica di lotta, cioè l'uso del conflitto per produrre nuovi spazi discorsivi e medici, diciamo, fuori dal pregiudizio, se pensiamo per esempio all'omosessualità o alla transessualità che passano, diciamo, da patologia a quello che è. Un'altra cosa centrale è per esempio il fatto di una conoscenza diffusa, no? Quindi una sorta di investimento continuo nell'autoformazione e nella ricerca all'interno delle proprie comunità, proprio per rompere con forza, diciamo, la presunta neutralità, no, della scienza o delle istituzioni mediche. E infine un altro punto di forza è l'organicità, cioè concepire la cura come un insieme di aspetti socio-sanitari che in qualche modo, soprattutto negli ultimi decenni, diciamo, l'approccio interventista, soprattutto portato avanti dalle case farmaceutiche, perché è interessato a creare prodotti, no, per il mercato, quindi il farmaco, la medicina, la pillola, non basta, no? Ma serve, come tra l'altro aveva ampiamente segnalato, diciamo, la riforma del servizio sanitario pubblico nel 1978, un approccio preventivo, quindi non gerarchico, territoriale e capace di connettere, diciamo, scienza e società per leggerne le possibili malattie a venire. Le sette pratiche nel libro sono Abortion Drone, che è un progetto della ONG Women's on Wave, già impegnata sul diritto all'aborto, nello specifico con BARC che lo praticano, cioè praticano l'intervento di interruzione volontaria fuori dalle acque nazionali, e che in questo progetto, diciamo, con dei droni meravigliosi porta pillole abortive laddove appunto non sono legali e o non sono distribuite come in Italia oggi. Un altro progetto è Open Rampette, che è un'iniziativa pilota nata all'interno di un progetto europeo di nome Open Care, che prova a migliorare l'accessibilità dei negozi di Milano appunto tramite rampe e scivoli, diciamo, più modulari e meno statici. Un altro progetto è EcoPen, che è una specie di eco stetoscopio open source per la diagnostica a basso costo all'interno degli ospedali. Poi c'è Mirrorable, una piattaforma interattiva per diciamo la riabilitazione di bambini e bambine con danni da ictus, cioè quindi modellata intorno alle loro specifiche necessità che spesso sono un po' fuori dai radar. Poi c'è Soprasotto, che è un asilo co-creato da genitori per rispondere alla crisi del welfare. E gli ultimi due progetti sono Wheel Map, che è una bellissima mappa online collaborativa che segnala i luoghi accessibili alla sedia a rotelle in tutto il mondo, e infine Alma. Qui entriamo nel biohacking, che è un biosensore indossabile, cioè proprio delle mutande, per l'autoindividuazione di possibili infezioni vaginali. È vero però che nel libro, diciamo, al di là di queste specifiche sette schede, emergono tra le righe tantissime altre pratiche, no? Ed è per questo che Zoe ha cominciato a fare dei meravigliosi podcast per, diciamo, implementare e diffondere questi racconti, no? Infatti ora voglio mandarne uno che è un po' legato alle questioni che affronteremo questa sera, ovvero che ci parla di un tema spesso poco indagato, che è quello della cura di chi cura. Nello specifico questa sera si parla di dispositivi medicali, dispositivi medicali appunto da mettere a disposizione per chi cura e non li ha in questo momento, no? Ma in questo podcast che ascolteremo si parla di infermieri e infermiere che si, in un certo senso, autocurano la loro stessa organizzazione del lavoro e di come queste innovazioni nel metodo di lavoro abbia poi impattato nella cura dei malati. Mando questo podcast. Cure ribelli. Tecnologie aperte per una cura come bene comune. Burtzorg è un'organizzazione non profit nata nel 2006 in Olanda che riunisce infermiere di quartiere riorganizzandone il lavoro secondo nuovi principi di ottimizzazione. La sua particolarità è di avere un approccio all'autogestione che ha ridotto della metà le ore di cura, ne ha migliorato la qualità e ha raggiunto una maggiore soddisfazione lavorativa dei pazienti e dei dipendenti. Le infermiere di quartiere sono una figura professionale specifica del sistema sanitario nazionale olandese, fin dal secolo scorso. Anello di connessione tra ospedali, medici di base e pazienti visitati a domicilio, a partire dagli anni 90 questa figura è stata esternalizzata e le infermiere si sono dovute costituire in organizzazioni autonome in regime di subappalto con il settore pubblico. Fino all'avvento di Burtzorg, il management di queste organizzazioni ha gestito il personale seguendo una logica organizzativa classica, improntata alla competitività e all'efficienza. Tipicamente i turni sono pianificati centralmente da un manager e distribuiti secondo percorsi che fanno risparmiare sui tempi di percorrenza e che quindi variano ogni giorno. Ognuna delle infermiere deve quindi usare un badge per tracciare le mansioni svolte in un arco di tempo predefinito. 10 minuti per un'iniezione, 15 per un bagno e così via. Inoltre, le mansioni vengono solitamente assegnate a seconda del livello di specializzazione del personale per ottimizzare i costi, così che le infermiere maggiormente qualificate e quindi più care si trovano a gestire solo interventi difficili, mentre quelle meno qualificate faticano a progredire. Il risultato di questo approccio alla cura domiciliare, anche quando potenziato dalle tecnologie, ha prodotto risultati davvero scarsi. Non solo i pazienti lamentano la carenza di un rapporto personale con i propri infermieri, che cambiano in continuazione, ma si ammalano anche con più frequenza. Le stesse infermiere hanno dichiarato di sentirsi svalutate nella propria competenza professionale. La nascita di Burtzorg ha rivoluzionato questo sistema, proponendo un modello organizzativo ispirato a principi totalmente diversi, dal monitoraggio, efficienza e standardizzazione. Pur servendosi di tecnologie per il coordinamento, Burtzorg ha eliminato totalmente la figura del manager. Qui le infermiere si autogestiscono in squadre di 10-12 persone. Tutta la squadra si occupa di tutte le mansioni, evitando la frammentazione dei servizi offerti. Le squadre decidono in piena autonomia anche per quanto riguarda la turnazione, le ferie ed eventuali collaborazioni con centri di riabilitazione o le farmacie. L'andamento delle attività viene monitorato e discusso in forma assembleare e non c'è nessuno che lo valuti dall'alto. Le squadre sono invece supportate da facilitatori per risolvere problemi specifici che non riescono a risolvere in autonomia. Burtzorg prefigura così un ideale impiego di tecnologie digitali nell'ambito della salute che sposta l'enfasi dal controllo al potenziare invece la capacità di coordinamento e reazione proprio dei collettivi di portatori di cura, in sinergia con le persone prese in carico e le loro comunità di riferimento. Humanity over bureaucracy, ossia umanità oltre la burocrazia, è il loro motto. E i risultati che stanno ottenendo suscitano l'interesse di operatori di vari paesi, facendone un vero e proprio caso studio e attivando piloti locali in tutto il mondo. Eccoci di nuovo qui. Allora, vi voglio segnalare che il libro si trova, diciamo, se fate una ricerca Google, Cure Ribelli, lo trovate perché è in open access, e anche i podcast, se fate una ricerca Cure Ribelli podcast, li trovate tutti e quindi scoprite anche altre storie. Ma entriamo finalmente nel merito della puntata, dopo oltre mezz'ora. Quindi, diciamo, entriamo in quello che abbiamo visto accadere in questi giorni all'interno delle comunità di makers in giro per l'Italia, anche se però sottolineo che questa cosa sta succedendo in tutto il mondo, cioè la progettazione e produzione forsennata di alcuni hardware DIY, cioè di dispositivi medicali carenti oggi nelle strutture pubbliche sanitarie, quindi che non sono sufficienti per, diciamo, curare l'impatto delle persone che stanno entrando negli ospedali oggi. Quindi maker che stanno facendo funzionare stampanti 3D e taglierine giorno e notte in casa e nei loro laboratori. Prima di arrivare lì però bisogna notare, secondo me, una specie di cambio di narrazione, no? Perché negli scorsi anni si è sempre un po' parlato di questa comunità, soprattutto nei servizi giornalistici, in TV, nei giornali, soffermandosi più che altro sull'aspetto ludico, no? E consumista dell'utilizzo di queste tecnologie di fabbricazione digitale, mentre oggi sembra finalmente che l'attenzione sia spostata su un tema, diciamo, molto più caldo, no? Direi scottante, che è appunto quello della produzione di dispositivi medici o medicali, ovvero di strumenti utilizzati in medicina a scopo di diagnosi, di prevenzione, controllo, terapia o di attenuazione di una malattia. Ma per entrare meglio nel discorso, chiedo a te, Zoe, di spiegarci cosa sono, cosa succede in Italia in questi giorni, quali sono alcuni esempi che in questi giorni di emergenza stanno facendo, diciamo, la differenza, diciamocelo, e infine anche ti chiederei di raccontare come ne avevamo parlato nel libro Cure Ribelli attraverso la guida. Sì, allora, diciamo che tutto ciò che non è farmaco o vaccino o che utilizza un processo metabolico per quegli scopi ricade in quella categoria di dispositivo medico, quindi uno strumento che serve per gli obiettivi di cui hai detto. Quindi, per esempio, le mascherine protettive per il viso sono un dispositivo medico di prevenzione. Come i farmaci, anche i dispositivi medici devono passare dei test, ricevere una marcatura nella comunità europea, che appunto ha delle specifiche normative. Come c'è un'industria del farmaco, esiste anche un'industria di dispositivi medici che è altrettanto potente. Immaginiamoci, cioè, se andiamo a vedere poi com'è costituita l'industria dei dispositivi medici, ci accorgiamo che 6 delle 10 aziende farmaceutiche più grandi del mondo ha sede negli Stati Uniti. Una di queste, per esempio, è la Johnson & Johnson, che tutti, vabbè, conosciamo, che non è solo tra le prime 10 come azienda farmaceutica, ma è anche fra le prime 10 tra le produttrici di dispositivi medici, perché tra i suoi prodotti vende, per esempio, protesi per l'anca, e le ginocchia, anch'esse sono dei dispositivi. In Europa abbiamo, per esempio, la Philips Healthcare, che quindi la Philips ha la sua area dedicata alla cura, che produce, per esempio, macchine per ultrasuoni o per fare le mammografie. Questi sono tutti dispositivi altamente tecnologici e ad alto valore aggiunto. Il tema è gigantesco perché ci sono luci ed ombre sia dal punto di vista della ricerca che della certificazione che della durata di questi macchinari. In Cure Ribelli, in un articolo curato anche qui da Valeria, si racconta la storia di Frank's Hospital Workshop, che è un sito che da anni raccoglie e pubblica tutti i manuali di manutenzione e documentazione tecnica su cui riesce a mettere le mani, oltre a fornire tutorial realizzati da lui per riparare macchine che possono essere utili anche, ma che le aziende produttrici non vogliono lasciarci utilizzare perché ne hanno nuove da venderci, quindi lui è sempre sotto attacco dalle aziende. Anche per continuare a utilizzare macchinari che vengono considerati vecchi, ma in realtà poi non lo sono così tanto. Per approfondire il tema dei dispositivi, se qualcuno è interessato, c'è un bellissimo e allo stesso tempo agghiacciante documentario su Netflix probabilmente lo trovate anche nei vostri streaming di fiducia, intitolato Bleeding Edge, che racconta alcune dietro le quinte recenti dell'industria dei dispositivi. Già il titolo ci fa capire molte cose del contenuto, nel senso che Bleeding Edge è un termine che si usa in inglese per identificare tutte quelle tecnologie ad alto rischio perché ancora inaffidabili. Si rifà un po' al termine cutting edge, lo usiamo spesso per identificare qualcosa all'avanguardia, no? Una tecnologia cutting edge è l'avanguardia, è l'ultima generazione. Nel caso invece delle tecnologie bleeding edge, bleeding è nel senso proprio di qualcosa che sanguina, qualcuno che sanguina e soffre per l'inadeguatezza dei dispositivi che vengono messi in commercio senza un sufficiente numero di test e una vera raccolta di riscontri dai pazienti early adopters. Ovviamente non voglio fare spoiler, quindi accenno solo che tra i vari casi nel documentario si parla della spirale anticoncezionale Assure, che è stata rilasciata da Bayer nel 2002 e ritirata poi nel 2018, ossia 16 anni dopo, negli Stati Uniti, proprio a causa della diffusione di questo documentario. In Europa è stata ritirata un po' prima, nonostante da anni già ci fossero gruppi di donne organizzati dal basso con gruppi su Facebook che lamentavano gravi effetti collaterali, e questo accade anche in Italia. Ma torniamo al mondo dei maker. Io lo frequento da una decina d'anni, dal 2011, l'ambito intorno a cui ci siamo sempre mossi su temi di salute e cura è stato quello dove ovviamente era necessario trovare soluzioni personalizzate, customizzate, ossia dove l'esperienza diretta dei pazienti era la base di partenza, perché il loro problema non aveva una soluzione che era presente sul mercato. Quindi non sempre ci sono delle soluzioni che sono presenti sul mercato per tutti. Sto parlando in particolare di disabilità oppure di malattie rare che non hanno una sufficiente domanda da far nascere una risposta commerciale, non essendoci poi un vantaggio economico nel trovare una soluzione. Quindi anche in questo contesto c'è una questione importante che riguarda la sicurezza e la responsabilità. Costruire soluzioni dal basso con e per la salute di qualcuno e qualcuna implica un rischio che non vogliamo sottovalutare. Per questo motivo è soprattutto importante costruire una consapevolezza rispetto a cosa si intende con rischio. E nel libro In cure ribelli, che abbiamo pubblicato appunto l'anno scorso, insieme e all'interno del libro che in modo autonomo, indipendente, su dei blog post, abbiamo inserito un'infografica che contiene principalmente un'illustrazione degli step per aiutare le persone non esperte a comprendere gli elementi chiave delle normative dell'Unione Europea, che certo sono temi super noiosi, ma che in qualche modo ha senso averne consapevolezza. La guida, quindi, che abbiamo costruito non è un documento tecnico, ma piuttosto è una risorsa per i principianti, all'obiettivo di rendere la comunità di innovatori sociali, i maker, ma anche chiunque sia interessato, consapevole delle fasi rilevanti da prendere in considerazione durante lo sviluppo di un approccio in ambito sanitario, di un approccio DIY, di un approccio dal basso. In pratica, sapere di che cosa stiamo parlando. Quindi la guida la trovate andando sul sito di WeMake e cliccate su wemake.cc, cliccate su blog e in alto a destra trovate la possibilità di ricercare nel sito. Se digitate Medical Guide, il primo risultato è quello che vi permette di scaricare la guida in PDF, sia in italiano che in inglese. Ora, non abbiamo tempo, non voglio andare a fondo sulla guida, ma vorrei solo accennare al fatto che uno degli step principali consiste nell'identificare qual è lo scopo medicale, ossia ci aiuta a rispondere alla domanda: che tipo di dispositivo sto creando? A che cosa serve? Le categorie principali sono 7: prevenzione, diagnosi, monitoraggio, prognosi, trattamento, compensazione e analisi. E nella guida ciascuna delle categorie è un esempio che chiarisce per chi è interessato a capirne di più. I dispositivi realizzati dai maker durante l'emergenza Covid si sono mossi in due categorie principali, una è quella della prevenzione e una è quella della compensazione per, e di questo vorrei fare un paio di esempi. Rispetto alla prevenzione stiamo parlando ovviamente delle mascherine o anche delle visiere di plastica che proteggono gli operatori sanitari e i cittadini. Si tratta di dispositivi di solito, quelli in commercio, certificati a basso costo e ormai prodotti principalmente in Cina, perché diciamo sono dispositivi a poco valore aggiunto. Con la pandemia ci si è ritrovati di fronte a una carenza e quindi si è subito diffusa una documentazione, i file 3D da scaricare e le istruzioni per produrli localmente. Man mano che i paesi venivano toccati dall'epidemia e la carenza di dispositivi di protezione emergeva, la community dei maker locali si attivava per arginare questa mancanza e trovando modi più o meno ingegnosi per produrli, usando stampanti 3D e materiali facilmente reperibili. La cosa interessante è proprio l'attivazione di un progetto di ricerca e sviluppo molto agile, con medici e infermieri che testavano i prototipi sul campo e grazie ai loro feedback si miglioravano i dispositivi e si aggiornavano continuamente i file per produrre maschere e visiere confortevoli e sicure. Dall'altra, diciamo, c'era anche l'esigenza di rispondere a una mancanza, infatti per esempio i respiratori delle terapie intensive, oltre ad essere pochi, hanno bisogno di sostituire una componente e una di queste componenti si chiamava il tubo di Venturi, una valvola usa e getta che il produttore originale non riusciva a produrre in tempo per rispondere alle necessità di un ospedale, in particolare qui in Italia era un ospedale vicino a Brescia. Grazie a una triangolazione tra The Fab Lab di Milano e un'azienda di Brescia, dopo aver cercato di contattare il produttore della valvola per farsi rilasciare il file, ma senza successo, hanno deciso di procedere ugualmente, ossia è stato fatto un processo che a me piace molto, quello di ingegneria inversa. Che significa? Non mi vuoi dare il file? Ok, non c'è problema. Prendo il pezzo, lo misuro e lo ridisegno. E così è stato fatto. Per questo pezzo, però, dopo avere il modello 3D, le precauzioni da prendere per stamparlo erano molto alte, perché era necessario stampare in un ambiente igienizzato, con materiali particolari e con stampanti che costano molto di più rispetto a quelle che si trovano nei Fab Lab. Quindi si è dovuto cercare una modalità diversa che ha coinvolto aziende del territorio che avevano a disposizione quelle stampanti. Diversa invece è stata la storia della valvola Charlotte ed Ave. Infatti, prima di arrivare alla terapia intensiva, ci si è accorti che molti pazienti affetti da Covid potevano beneficiare di un supporto di ossigeno alternativo. Già in Cina si erano diffusi dei prototipi, già all'inizio, che utilizzavano delle maschere per le immersioni, che erano opportunamente modificate proprio per questo scopo. E la stessa azienda di Brescia, Isinnova, che ha lavorato al progetto precedente e che già stava collaborando con proprio l'ospedale di Chieri, avevano identificato le maschere che le maschere in vendita da Decathlon erano un buon punto di partenza per realizzare un prototipo grazie alla progettazione e stampa 3D di due valvole per canalizzare l'ingresso e l'uscita dalla maschera. La cosa interessante era che, a differenza delle valvole di Venturi, queste valvole potevano essere stampate da stampanti 3D presenti in molti Fab Lab del territorio italiano e quindi c'è stata una chiamata alla partecipazione, supportata anche dal fatto che si era creato un gruppo su Facebook che raccoglieva maker da tutta Italia pronti e disponibili a collaborare. Ora ho raccolto, cioè farei parlare un audio che ho registrato in cui sentirete la voce di Gabriele Carloni, che è fondatore di Making Bo, Making Bologna, e tra gli iniziatori appunto del gruppo Facebook chiamato 3D Print for Covid-19. Volevo appunto intervistarlo, ma poi ho visto che un paio di giorni fa ha partecipato a una videoconferenza online organizzata da Impact Hub Firenze, e quindi, visto che raccontava molte delle cose che volevo sentirgli dire, gli ho chiesto il permesso di estrarre alcuni pezzi del suo intervento che sono significativi a questa trasmissione. Quindi, e adesso sì. Infatti li mandiamo. Diciamo che il gruppo di Facebook era nato intorno probabilmente ai primi di marzo su delle richieste specifiche che stavano arrivando soprattutto al sud da parte di operatori a chi poteva fornirgli mascherine, schermi, cioè schermi da mettere davanti alla faccia e cose del genere, perché loro non ne avevano a disposizione e infermieri, medici e così via non si sentivano sicuri, per cui si rivolgevano al giro del, diciamo, dei maker locali, dei Fab Lab, che il più delle volte erano, cioè sono sotto forma di aziende artigiane vere e proprie, cioè non sono smanettoni da niente. Da di lì è nato il gruppo. Il gruppo si chiama 3D Print COVID-19. È nato il gruppo che ha incominciato a raccogliere membri, a raccogliere idee, proposte, inizialmente soprattutto sulle mascherine. E tutti ci siamo resi conto fin dall'inizio di quanto tecnologicamente sono avanti le mascherine che trovavamo a pochi centesimi in circolazione, cioè le famose mascherine chirurgiche che in periodi non sospetti costavano 20, 30, 40 centesimi l'una. In realtà dietro c'hanno una tecnologia molto spinta, soprattutto sui materiali che vengono usati, e soprattutto sono oggetti che trovano un'economia nelle produzioni di larga scala. E la cosa ancora più devastante è che purtroppo tutte queste produzioni sono state prese e spostate in Cina. Quindi di fatto se la Cina si è fermata anche nella produzione di mascherine. Quindi noi che adesso ne avevamo bisogno ci siamo trovati senza un pezzo di industria che di punto in bianco era un'industria strategica. Quindi tutto il gruppo ha incominciato dapprima a lavorare sulle mascherine e ha sviluppato tutta una serie di concept più o meno validi, tutto quello che sono le varie mascherine stampate o cucite, i tutorial e così via. Poi si è passati, dopo la prima call, dopo il primo annuncio di Temporelli, che assieme a Isinova avevano fatto la valvola per i respiratori, e in realtà il tubo Venturo per i respiratori, tutti hanno incominciato a chiedersi, ma se ci date i file ve li stampiamo noi, dimenticandosi che chiaramente una cosa dove ci va un flusso d'aria deve avere delle caratteristiche fisiche costruttive che magari vanno oltre la qualità di un FDM. Dopodiché c'è stata l'ulteriore chiamata del Fab Lab di Brescia per la stampa degli adattatori per le maschere della Decathlon. Hanno chiesto praticamente 500 kit alla community in maniera un po' così, un tantam, chi può farlo lo faccia perché ne abbiamo bisogno, e la comunità ha risposto in maniera generosissima, in maniera proprio col cuore, come si risponde di fronte a un disastro naturale a cui quello che c'ho te lo do fuori. Noi con una piccola riflessione all'interno del gruppo Facebook abbiamo incominciato a dire sì, ma dobbiamo ottimizzare i flussi di richieste, gestire chi fa le cose, soprattutto evitare di disperdere energie per l'Italia, quando magari possiamo dire a chi fa una richiesta guarda che dietro casa c'è qualcuno che ti può aiutare, quindi fare da connessione fra la domanda e l'offerta localmente, e a cercare anche di controllare la qualità e selezionare in un qualche modo chi poteva offrire questi servizi, perché non tutti potevano offrirli. Quindi abbiamo utilizzato il sito esistente dell'associazione Make in Italy, il sito è makeinitaly.org, dove cerchiamo di raccogliamo le domande da parte di chi ha delle richieste di presidi di varia natura, l'offerta locale, ed eventualmente c'è anche un operatore che si fa carico di fare delle chiamate per cercare di mettere in contatto i singoli riferimenti. Se scendi sotto c'è anche la mappa con tutti quelli che si sono registrati, e cerchiamo di fare in modo di ottimizzare le energie per evitare di non buttare via materiale, di non fare stampe che non servono a niente, di dare fuori delle cose che possano avere un significato. Il mondo maker in questo momento, ma anche in altri momenti, fa come dire, da ricerca e sviluppo a basso costo su soluzioni che possono essere qualcosa in divenire, ok? Perché di fatto te ne freghi delle normative, te ne freghi dello stato dell'arte, te ne freghi dei materiali utilizzati, te vuoi raggiungere quel risultato e poi magari fra 1.000 esercizi che fai ce n'è uno che ti dà un risultato che è un po' migliore, diverso, perché hai seguito delle strade che nessun altro ha seguito prima. Quindi questo è lo sforzo, è quello che in un qualche modo una comunità maker può dare a un mondo dell'industria. Non sempre il mondo dell'industria ha occhi per vedere queste cose, perché considera il mondo maker come un mondo di smanettoni, di hobbisti, quando in realtà dietro c'è un'intera categoria di piccoli imprenditori, di gente che macina, lavora normalmente in digital fabrication, che lavora normalmente con strumenti informatici di creazione di oggetti, per risolvere tanti piccoli problemi quotidiani, soprattutto gente abituata a fare tanto con poco. Quindi a cercare di ottimizzare i percorsi nel suo piccolo e soprattutto a ridurre le filiere produttive, quindi fare in modo che quel prodotto mi costi poco, che io possa produrlo velocemente e così via. Sono esercizi che nelle grosse industrie poche volte vengono fatti. È chiaro che quello che salta fuori dalla comunità maker può anche essere mutuato in un qualche modo dall'industria per reinventare qualche prodotto. Credo che da qualche parte in Decathlon qualcuno ringrazierà il fatto che abbiamo trasformato un prodotto stagionale in un prodotto medicale continuativo. Quindi questa cosa qui sarebbe bello che venisse riconosciuta alla community. C'è anche l'altro aspetto, un pochino più fastidioso, che è quello dell'appropriazione delle idee che girano, facendole proprie, dicendo sono le mie, perché le modifiche sulle maschere da snorkeling erano 3 mesi che giravano, da quando è cominciata la crisi in Cina. Giravano i disegni degli hackeraggi di queste mascherine. Quindi ci vorrebbe un pochino più di onestà intellettuale dietro tutta questa cosa. Poi ben venga l'industria che si appropria di queste cose e che le porta a economia, perché il lavoro del maker fondamentalmente è un lavoro da pioniere. Cioè, se io scalo una montagna e tu il giorno dopo passi e mi tiri su una strada perché tutti possano farlo, io almeno ho tracciato il primo percorso. Questo è un pochino quello che dovrebbe essere una funzione riconosciuta. Ecco, magari questo forse non succede del tutto. Ecco, vuoi aggiungere altre due parole, Zoe? Sì, aggiungerei che dopo l'intervento che avete sentito si aprono mille temi interessanti che magari affronteremo nelle puntate successive, nelle prossime puntate, ma mi piacerebbe concludere questa parentesi maker cercando di immaginarmi un futuro possibile che ha già una parte di semi germogliati nel presente, in cui mettiamo a sistema un tipo di infrastruttura in grado di rispondere alle esigenze di cura di questa fase dell'umanità. Proviamo a immaginarci una serie di lab distribuiti su tutto il territorio con macchinari che sono multipotenti, come le stampanti 3D, in grado di produrre prototipi in tempi rapidi e testare sul campo nuovi dispositivi, collaborando sia con i cittadini, con le piccole imprese in grado poi di produrle in serie. E accanto a questa infrastruttura fisica e tecnologica, un repository invece di intelligenza globale condivisa, quindi un archivio organizzato e sempre in espansione di commons digitali, e che permetta alle soluzioni trovate e testate localmente di essere replicate con una velocità mai vista prima in altre parti del mondo, dove è necessario. Questo, diciamo, ci permetterebbe di realizzare un empowerment locale senza dover ricadere in un nazionalismo spinto di antica memoria e quindi ragionare anche su una sostenibilità economica, sociale ed ecologica di nuova generazione. Ecco, mi piacerebbe affrontare questi temi non solo in emergenza. Sì, esatto, sono d'accordo, anche perché diciamo poi questa guerra su i brevetti vale anche, no, per i farmaci, no? E per esempio le esperienze anche raccontate nel libro, come quella di Caravan for Canada, ovvero delle vere e proprie file di macchine che, diciamo, dagli USA vanno a comprare per esempio l'insulina in Canada, perché a fronte dello stesso prodotto costa il 90% in meno. Sono abbastanza, insomma, testimoniano, no, di questa guerra. Forse la storia più conosciuta è anche, diciamo, le migliaia di morti africane di AIDS, perché appunto impossibilitati a pagare, diciamo, i costi dei farmaci annui che si aggiravano intorno alle 10.000 dollari, no? Quindi bisogna anche, insomma, dire che queste emergenze legate alla cura sono spesso, derivano spesso, no, da, diciamo, la guerra su brevetti, e sono anche generate dal fatto, per esempio nel campo dei farmaci, che ogni nuovo farmaco, quando viene brevettato, non può essere prodotto o venduto per almeno altri 20 anni, no? E quindi cosa succede? Che senza concorrenza le aziende farmaceutiche in questo caso possono decidere il prezzo assolutamente in modo autonomo, e sostengono spesso che, diciamo, i costi elevati sono dovuti a appunto ricerca e sviluppo, quello che invece prima veniva in qualche modo affrontato in modo più collettivo e più leggero. Detto ciò, però, non c'è trasparenza, nel senso che non si può vedere il business plan di queste aziende, e quindi come queste società investono il proprio capitale, quindi nessuno può verificare, diciamo, la plausibilità di tali affermazioni, cioè che, ovvero che i costi sono tutti legati al famoso R&S. Ci sono però, sia nel campo, diciamo, dei dispositivi, sia soprattutto, adesso parlo dei farmaci, dei gruppi, diciamo delle ONG o pezzi di società civile, come per esempio Fix the Patent Law o Fair Pricing of Medicines, o tanti altri che lavorano, diciamo, sull'accessibilità da anni, no? Però bisogna segnalare che, diciamo, c'è stato un tentativo recente, cioè un tentativo in qualche modo di regolamentare la trasparenza del mercato dei farmaci, che è stato in qualche modo offerto all'Organizzazione Mondiale della Sanità dal nostro ex ministro della Sanità italiano, cioè la Giulia Grillo. Infatti lei ha inviato, diciamo, ha invitato più che altro, chiaramente ha inviato anche una sorta di manifesto, ha invitato i governi a discutere, diciamo, su come si potrebbe richiedere alle aziende di rivelare i costi annuali, no? Di ricerca e sviluppo, di produzione e anche i margini di profitto dei singoli, diciamo, prodotti farmaceutici. La risoluzione è stata discussa durante l'Assemblea Mondiale della Sanità, che si è tenuta a maggio del 2019. È un inizio, nel senso che in realtà non è stata, cioè è stata, diciamo, accettata parzialmente, quindi però è un inizio, e comunque pensiamo che questo sia un inizio essenziale, diciamo, per cominciare a difendersi dai monopoli farmaceutici e soprattutto per rafforzare questo discorso, diciamo, in favore di un maggiore accesso alle cure. Detto ciò, c'è anche un'altra prospettiva, ovvero quella, secondo cui, diciamo, attenersi al sistema attuale, ovvero dei brevetti, non porterà mai, diciamo, all'accesso alle cure universali, no? E quindi, come sempre, alcuni sopravviveranno e altre no. In questo senso, per esempio, c'è Open Source Pharma, che è una comunità mista tra ricercatori, ricercatrici, medici, dottori e dottoresse, che di fatto sta proponendo un nuovo modo di concepire la ricerca e anche la distribuzione di farmaci, no? E che quindi, in un certo senso, invita a creare e sviluppare un sistema, in questo caso farmaceutico, alternativo, open source, guidato da alcuni principi di apertura e alle esigenze, diciamo, dei pazienti, no? È vero che l'idea, diciamo, dei brevetti e dell'efficienza, soprattutto del sistema dei brevetti, è molto foraggiato, no? Per esempio, nel 2002, Charles Jones scrive un pezzo all'interno del suo libro che si chiama Introduzione alla crescita economica, dove in qualche modo crea una sintesi sul perché, diciamo, I brevetti sembrerebbero l'unico modello economico possibile. Lui sostiene, senza mezzi termini, che senza brevetti è impossibile fare quella prima parte di profitto iniziale, quindi è impossibile fare ricerca e di conseguenza innovazione, no? Tuttavia, bisogna dire che negli ultimi 20 anni, diciamo, il legame diretto tra, protezione della proprietà intellettuale e tassi di innovazione è stato sempre più messo in discussione, no? Per esempio, ci sono alcuni studi empirici, che hanno sottolineato che nella maggior parte dei casi i brevetti non sono percepiti come strumenti efficaci per proteggere le innovazioni, cioè proprio dalle aziende stesse, che quindi queste in genere lavorano con altre strategie di chiusure che non prevedono affatto, per esempio, la protezione brevettuale. Altre ricerche dimostrano invece che, per esempio, l'assunto, questo qui di Charles Jones, secondo cui i costi di imitazione sono trascurabili, che è proprio la pietra miliare, diciamo, dell'argomentazione tradizionale sull'efficienza del brevetto, non è un assunto non supportato. Cioè che in effetti se l'imitazione delle invenzioni è costosa e richiede tempo, allora gli inventori in realtà potrebbero già sfruttare i vantaggi della prima mossa per appropriarsi, diciamo, dei ritorni economici senza per forza richiedere la protezione brevettuale. Un altro studio bellissimo l'ha fatto Moser nel 2005, che cataloga tutte le innovazioni, diciamo, di metà XIX secolo, quindi anche la velocità di innovazione fuori dal sistema dei brevetti. Nulla, quindi su questo direi che ci mandiamo una bellissima canzone. Eccoci di nuovo. Allora, per raccontare un altro aspetto di questa galassia, vorrei mandare un audio di Luca Recano, che è un ricercatore attivista napoletano, nonché promotore in questi giorni proprio di una, diciamo, recente piattaforma, che è una pagina wiki di nome Viral Solidarity. Quindi una wiki aperta e collaborativa dove mappare, connettere, organizzare tutto quello che sta succedendo, canali informativi, iniziative di solidarietà, innovazione, cooperazione sociale, dal locale al globale. Un po' come risposta appunto a questa pandemia. Quindi direi anche qui, diciamo anche in questo caso, come le nostre fondamentali compagne di Obiezione Respinta, una mappatura collettiva un po' anche per riprendersi la mappa come strumento politico organizzativo invece che come strumento di controllo. Grazie per averci coinvolto nella vostra trasmissione. Spero che stiate bene e che stiate vivendo anche voi le misure di distanziamento sociale come un'occasione anche positiva per ripensare le nostre relazioni sociali, economiche, affettive e le pratiche di cura e anche gli strumenti che le possono supportare. E vi racconto un po' l'esperienza di viralsolidarity.org. Viral Solidarity è una wiki, quindi un sito web collaborativo, ed è pensato come uno strumento per mappare, connettere e organizzare sia i canali informativi utili per le persone, sia le migliaia di iniziative spontanee e organizzate di solidarietà, di cooperazione o di attivazione civica, sociale e politica che si stanno sviluppando per rispondere all'emergenza e soprattutto per tutelare la salute e i diritti soprattutto delle persone e dei gruppi sociali più esposti e vulnerabili, sia da un punto di vista economico che sociale e culturale a diversi livelli, quindi a livello locale, nazionale e transnazionale. L'idea è venuta dalla meraviglia che ci ha colpito di fronte all'enorme quantità di iniziative, anche molto diverse tra loro per natura, che si sono rilanciate sui media e soprattutto sui social media, nelle chat e tramite il passaparola, diciamo subito dopo l'emergere di questa situazione di emergenza. E così, mentre Giulio Quarta, assieme al gruppo del Connettivo che si occupa di tecnologia e Commons Economy, ha cominciato un lavoro di mappatura e di raccolta dei contatti sui social media, con Ivan Minutillo, che è attivista e sviluppatore che collabora anche con Dine.org, ci è venuta l'idea di creare una wiki di cui Ivan ha curato l'avviamento tecnico e l'idea iniziale. L'idea della wiki è di un progetto molto artigianale in divenire, la cui architettura tecnica e anche organizzativa segue lo schema più del bazar. Vi racconto un po' l'esperienza di viralsolidarity.org. Viral Solidarity è una wiki, quindi un sito web collaborativo, ed è pensato come uno strumento per mappare, connettere e organizzare sia i canali informativi utili per le persone, sia le migliaia di iniziative spontanee e organizzate di solidarietà, di cooperazione o di attivazione civica, sociale e politica che si stanno sviluppando per rispondere all'emergenza e soprattutto per tutelare la salute e i diritti soprattutto delle persone e dei gruppi sociali più esposti e vulnerabili, sia da un punto di vista economico che sociale e culturale a diversi livelli, quindi a livello locale, nazionale e transnazionale. L'idea è venuta dalla meraviglia che ci ha colpito di fronte all'enorme quantità di iniziative, anche molto diverse tra loro per natura, che si sono rilanciate sui media e soprattutto sui social media, nelle chat e tramite il passaparola, diciamo subito dopo l'emergere di questa situazione di emergenza. E così, mentre Giulio Quarta, assieme al gruppo del Connettivo che si occupa di tecnologia e Commons Economy, ha cominciato un lavoro di mappatura e di raccolta dei contatti sui social media, con Ivan Minutillo, che è attivista e sviluppatore che collabora anche con Dine.org, ci è venuta l'idea di creare una wiki di cui Ivan ha curato l'avviamento tecnico e l'idea iniziale. L'idea della wiki è di un progetto molto artigianale in divenire, la cui architettura tecnica e anche organizzativa segue lo schema più del bazar che della cattedrale, per cui ci siamo dati uno schema di base molto semplice, con poche regole condivise, e poi abbiamo aperto la collaborazione alle reti di prossimità che via via abbiamo poi intercettato. L'idea è incentrata sulla costruzione di pagine locali, che possono servire materialmente alle centinaia di gruppi che stanno lavorando nei centri urbani e non, per coordinare e per rendere fruibili, le loro azioni di solidarietà e di cooperazione. Le iniziative locali che stiamo mappando sono di diverso tipo. Ci sono reti di mutuo soccorso che si occupano della distribuzione solidale della spesa e dei premi e dei beni di prima necessità per le persone indigenti oppure impossibilitate a uscire, campagne di rivendicazione politica come quella per l'estensione del reddito di cittadinanza, competizioni e flash mob anche proposte su base locale, sportelli di ascolto e supporto psicologico, gruppi di supporto per le attività domestiche con i bambini, mappe interattive dei servizi attivi sui vari territori, canali informativi, anche canali di intrattenimento che viaggiano sui gruppi Telegram, attraverso le web radio e le web TV indipendenti, e iniziative importanti anche come il potenziamento dei centri antiviolenza per rispondere all'aumento dei rischi sul versante della violenza domestica e di genere, e gruppi delle comunità makers e DIY che si sono attivati ad esempio per supportare il personale sanitario con la produzione e la distribuzione di dispositivi medici e di protezione con progetti open source e anche per esempio indicazioni di accesso ai servizi pubblici per lo studio oppure ai servizi sociali per i bisogni fondamentali e per rispondere a tutti quei rischi sociali che sono connessi all'emergenza, come ad esempio le condizioni di chi è in emergenza abitativa o delle milioni di persone costrette a casa senza un reddito. E oltre a questi nodi locali e agli aggregatori nazionali ci sono diverse pagine tematiche, ve ne segnalo alcune. Ce n'è una dedicata alla cultura che raccoglie i link delle migliaia di iniziative di accesso libero ai contenuti culturali, compresi quelli di musei e biblioteche, e nonché anche iniziative culturali indipendenti. Un'altra invece è dedicata ai contenuti tecnologici e scientifici. Ci sono sia modelli di elaborazione dati in formato open source per studiare e rendere comprensibile l'evoluzione dell'epidemia, ma soprattutto, appunto, come già accennato prima, iniziative delle comunità di makers e DIY che in tutto il mondo stanno sperimentando e condividendo questi progetti di produzione di dispositivi di protezione e prevenzione per supportare sia l'autoproduzione che le forniture carenti del personale sanitario e di quei lavoratori costretti appunto a continuare a lavorare in situazioni a rischio o di persone che non hanno la disponibilità per accedere a questi dispositivi. L'organizzazione è molto semplice, funziona attraverso un canale Telegram che si chiama Viral Solidarity Wiki, che è aperto a tutti coloro che vogliono proporre contenuti da mappare o che invece vogliono impegnarsi attivamente a coordinare e gestire le pagine della Wiki, sia le pagine tematiche sia i nodi locali, e attraverso diversi gruppi che stanno funzionando sui social media. Viral Solidarity non è l'unica iniziativa di questo tipo, quindi abbiamo provato ad affiancarci a connetterci con altre iniziative analoghe. E l'intento, appunto, più che creare un prototipo estremamente efficiente dal punto di vista tecnologico organizzativo, era quello di fornire uno strumento immediatamente fruibile per le persone e facilmente utilizzabile, e anche quello di stimolare proprio iniziative analoghe che vanno in questo senso. L'idea di fondo, diciamo la filosofia di questo progetto, è che l'infrastruttura tecnologica e di rete sia incorporata nelle dinamiche relazionali, affettive, di cura e organizzative che avvengono soprattutto a livello locale, affinché nell'evolversi di questa situazione di emergenza, si mettano a disposizione degli strumenti per abilitare le comunità, a organizzarsi per tutelare i diritti e i bisogni di tutti. Non sappiamo come si evolverà il funzionamento della Wiki, che appunto è molto in divenire. Ma vorremmo tenere saldo questo spirito di fondo e raccogliere contributi e proposte, in merito a questo. Ecco, allora torniamo di nuovo qui e nulla, un po' per andare in chiusura, anche a partire da quest'ultimo contributo, mi piacerebbe, diciamo, chiudere con alcune prospettive o domande, no? Intorno a quello che chiamiamo cura dal basso. Perché in effetti sì, stiamo assistendo a un'accelerazione, come per esempio il progetto Viral Solidarity ci dice, di fatto di pratiche più o meno strutturate, che insomma rispondono all'emergenza Covid, e mi chiedo insomma quali scenari di mobilitazione della cura dal basso si aprono, secondo te, anche Zoe, nel prossimo futuro, o come in qualche modo dargli una continuità. Ma diciamo, faccio un intervento sempre nell'ambito all'intersezione col mondo dei maker, perché è un po' questo il tema di oggi. Per la prima volta siamo riusciti a mostrare come Makerspace e FabLab possono essere utili in un contesto di necessità e qual è la loro caratteristica principale, ossia prototipare il nuovo e renderlo fabbricabile rapidamente in modalità distribuita. Questo è un po' qualcosa che non si era mai visto così di fronte agli occhi di tutti. Non si era mai presentata un'occasione del genere che mettesse in evidenza il valore che possono portare a una comunità, soprattutto quei laboratori che sono indipendenti, ossia iniziativa privata sul territorio. Molti fab lab, infatti, all'interno delle università, proprio per questioni anche di burocrazia, sono rimasti chiusi. Per questo è necessario capire in che modo può esistere una collaborazione tra pubblico e privato che si liberi però dalle dicotomie del passato. Forse è proprio questa distinzione pubblico-privato non ha senso detta così, in modo generico. Io preferirei parlare di soggetti che agiscono per l'interesse pubblico o l'interesse privato. Quindi, per esempio, possono esserci soggetti pubblici che agiscono per l'interesse privato, vedi i governi regionali che deviano le risorse pubbliche verso interessi privati. E poi ci sono soggetti privati che agiscono per l'interesse pubblico, come molti FabLab stanno facendo e molti anche giro volontari, cooperazione, stanno facendo in questo momento con più agilità e dinamismo degli stessi FabLab, per esempio, finanziati da denaro pubblico. Quindi io non so, vi inviterei a guardare con questa prospettiva, no? Uno scenario futuro. Qual è l'interesse che muove le persone, siano essi o le istituzioni, siano esse istituzioni pubbliche o private? Questo mi interessa. Sì, aggiungo un'ultima cosa anche per, diciamo, in qualche modo proseguire il discorso di Luca sulle infrastrutture, che mi sembra che, diciamo, le piattaforme digitali in qualche modo stanno rivelando, no, la misura in cui, cioè quanto la riproduzione sociale sia al centro di fatto, no, dell'accumulazione, diciamo, di capitale, no? E infatti, cioè, non è un caso che, diciamo, conoscenza, come anche si parlava prima di cellule, fluidi, sono di fatto la materia attraverso la quale viene, insomma, si alimenta, no, questo mercato. Tuttavia, mi viene da dire anche che cioè, questi strumenti digitali hanno anche trasformato in un certo senso il modo in cui riproduciamo noi stessi e le nostre comunità, dalla gestione del tempo, per esempio, alla normalizzazione delle relazioni sociali fino ai, diciamo, processi di soggettivazione che coincidono con i sistemi di profilazione dei dati, che è un aspetto, per esempio, questo che andrà affrontato nel prossimissimo futuro. Quindi, secondo me, una domanda è, diciamo, capire cosa accade quando invece le piattaforme digitali non sono, diciamo, sostenute integralmente da interessi commerciali, e quindi come possono creare in qualche modo ambienti più autonomi, come sta succedendo per esempio, in Viral Solidarity, e collettivi, comuni, anche attraverso proprio il design, no, della piattaforma. E io vorrei salutarti, Zoe, e Ciao, ringraziarti grazie a moltissimo. te, è stato bellissimo. E Lo per rifaremo. salutarti e ringraziarti, manderò un secondo, diciamo, podcast che hai fatto su questo progetto che si chiama Open Insulin. Cure ribelli, tecnologie aperte per una cura come bene comune. Open Insulin è un progetto nato per indagare modalità alternative per produrre insulina, al fine di superare i limiti della proprietà intellettuale e abbassare i costi imposti dalle case farmaceutiche. Attualmente ci sono più di 400 milioni di persone in tutto il mondo che vivono con il diabete e non possono sopravvivere senza insulina. Se nelle regioni più povere il problema è l'accesso all'insulina a causa dei costi base o della burocrazia, nei paesi più ricchi invece, negli ultimi 20 anni, il prezzo dell'insulina è lievitato senza una vera ragione, rendendola inaccessibile agli strati più poveri della popolazione, soprattutto in luoghi dove il costo non è coperto da un sistema sanitario pubblico. Se guardiamo agli Stati Uniti, le ultime statistiche rivelano che la mancata copertura sanitaria sta obbligando un diabetico su 4 a razionare il farmaco, provocando sempre più di frequente la morte dei pazienti più fragili economicamente. Open Insulin è stato fondato nel 2015 da Anthony DiFranco, uno scienziato informatico, membro della scena hacker californiana e affetto da diabete di tipo 1. All'epoca Anthony beneficiava di una buona assicurazione sanitaria collegata al suo contratto di lavoro, quindi il costo dell'insulina non era un problema. Ma 2 anni dopo, lasciando temporaneamente il lavoro per iscriversi a una scuola di specializzazione, ha perso di fatto la sua copertura sanitaria e si è ritrovato a pagare di tasca propria una cifra molto alta per la fornitura. Analizzando il mercato per trovare delle spiegazioni, Anthony si è reso conto che nonostante la tecnologia per produrre l'insulina sia sostanzialmente la stessa da circa 40 anni, invece di seguire la logica di mercato per cui più passano gli anni, più si procede verso una versione generica e più economica, le aziende farmaceutiche hanno apportato una serie di piccole modifiche al farmaco per estendere il brevetto e mantenere i costi elevati. L'obiettivo di Open Insulin è di sviluppare e rilasciare un metodo di produzione dell'insulina che possa avere 2 modi di distribuzione. Il primo è che i pazienti siano in grado di produrre la propria insulina in casa. Il secondo è che venga prodotta attraverso biolaboratori gestiti da comunità o piccole strutture sanitarie locali. E proprio per esplorare questa seconda opzione, Open Insulin è diventato un progetto collaborativo che coinvolge gruppi di biolaboratori di comunità in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, dal Belgio alla Svizzera, passando per il Senegal, Camerun e Zimbabwe. Se ripercorriamo la storia, ci rendiamo conto che l'obiettivo di questa comunità globale rievoca proprio le intenzioni degli originari scopritori del farmaco. Nel 1923, Frederick Banting, Charles Best e James Collip vendettero il brevetto per l'insulina all'Università di Toronto per $1 ciascuno, perché credevano che una medicina così essenziale dovesse essere disponibile per tutti coloro che ne avevano bisogno. La maggior parte delle insuline vendute oggi sono analoghi sintetici che sono stati adattati per durare più a lungo o agire più velocemente. Ed è con questi motivi che le aziende farmaceutiche non solo giustificano i costi elevati, ma impediscono ai produttori di farmaci generici di entrare sul mercato. Grazie a Open Insulin e altri progetti analoghi, stanno emergendo nuovi ecosistemi aperti che sfidano le artificiose complessità che circondano lo sviluppo di farmaci a scopo di lucro per mettere al centro principalmente il benessere dei pazienti. Ecco, con questa storia ci salutiamo, vi ringrazio. Ci vediamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì della settimana, sempre alle 7. Tra l'altro il giovedì ci sono anche le ribelle di Zamma, sempre alle 7, sempre su Radio Lotto tutto l'anno. Mi raccomando, contribuite alla radio inviando audio alla nostra mail, che ripeto essere nonunadimenomilano@gmail.com. E seguiteci sui canali social, che sono sempre Non Una di Meno Milano con un trattino o un puntino in mezzo. Abbiamo anche un canale Telegram che è t.me/nonunadimenomilano, dove comunichiamo e anche mandiamo i podcast fatti. E ora vi lascio con una storia e a seguire un po' di musica. Storie virali della buonanotte. Da quando le crociere turistiche sono state vietate, è difficile spiegare ai più giovani come fu vinta la battaglia di contenimento del virus più spaventoso del secolo scorso e cosa abbia voluto dire questa vittoria negli equilibri economici successivi. Il 10 febbraio del 2020, nel porto di Yokohama, in Giappone, una vacanza galleggiante si trasforma in un incubo. Alla nave appena attraccata viene impedito di far sbarcare i passeggeri per l'allarme coronavirus scoppiato a bordo poche ore prima. È così che restano bloccati sulla Diamond Princess 3.700 passeggeri. Il bilancio delle persone infette si aggrava di ora in ora tra passeggeri ed equipaggio, chiuse in vani di 1,5 metri per 2. Le poche immagini diffuse richiamano la sorte che all'epoca avevano i topi da laboratorio e le galline allevate in gabbia. La Diamond fu un caso emblematico. Nessuno poteva sbarcare, nessuno poteva salire per portare soccorso e c'era il divieto assoluto di salpare il mare. Insomma, una micro comunità di uomini e donne bloccate in un limbo d'acciaio tra la vita e la morte. Tra l'ansia, il sospetto, la paura e la violenza che serpeggiavano tra persona e persona c'era un sentimento che stava prendendo piede. All'epoca si diceva siamo tutti sulla stessa barca, anche se non ci credeva mai nessuno. Forse però in questo caso, data la materialità della metafora, i passeggeri della Diamond non poterono che affidarsi a questo consiglio. Si divisero così in tre gruppi: i malati, i non ancora malati, i guariti, e crearono una sorta di ecosistema che gli permise di ridurre la mortalità del gruppo o quantomeno di rallentarla. I malati stavano in cabina sotto gli occhi vigili dei guariti, i non ancora malati stavano sul ponte. Qui avevano allestito un laboratorio biomedico con gli utensili della cucina della nave. Era tutto molto casalingo e lontano dalle immagini platinate che scorrevano in quei giorni alla televisione, di industrie biomediche affannate a trovare il vaccino per prime. Eppure, sconfiggere il virus da soli sopra quella barca abbandonata a se stessa era l'unica opzione rimasta disponibile al momento. Così, sul ponte si testavano sangue e fluidi dei guariti, alla ricerca di anticorpi giusti da poi redistribuire a tutta la ciurma. Aleksandr Bogdanov si sarebbe di certo esaltato tra quelle prese di sangue, trasfusioni e alambicchi ricavati dalle porcellane trash di un ristorante da crociera. Tra una prova e l'altra, il gruppo si specializzò tanto da arrivare a prelevare una micro goccia di sangue a una bambina nata nella cabina 541 da una persona infetta. Princess la chiamarono, con l'assenso di Roger, sua madre. La goccia fu trasportata in laboratorio dentro a un bicchiere di cristallo sterilizzato per l'occasione e lì, i non ancora infetti, senza saperlo, cominciarono a segmentare, isolare e coltivare l'anticorpo che fece la storia della ricerca farmaceutica dal basso. Era la prima volta che un gruppo di persone slegate da interessi economici e accademici riusciva a creare un vaccino domestico e per di più il vaccino di uno dei più terribili virus del secolo. Cominciarono a testarlo tra passeggeri ed equipaggio per verificarne l'efficacia prima di diffondere la notizia al resto del mondo. E il vaccino funzionava, era incredibile. I malati guarivano e i non ancora infetti non si ammalarono. Per questo, ancora increduli, dopo un mese di quarantena forzata al porto di Yokohama, tra pentole modificate e alambicchi, decisero all'unanimità di alzare il volume di trasmissione radio e far tacere per sempre i monopoli farmaceutici che tra un virus e l'altro avevano colonizzato per lunghi secoli terre e corpi viventi. Sabes que sos muy linda pero muy improvisada. Dejate de joder y no quemes la guita. l'olio. El eslabón del engranaje que mantiene el morbo narco y el negocio del petróleo. Tomás pastillas ni que fueran caramelos de propóleo. Pará, siempre estás volando bien arriba y el arribo no te lo aguantas sin vivo. Transaste el bombo por un poco de incentivo y ahora todo lo real te resulta desconocido. Todo lo que no haya y pegue tiene el signo peso. Todo aquel que calle y pague se arruina los sesos. Yo quiero armar el pogo y que salgan ilesos, ni muertos ni presos. Eso no se toca, ni se corta, ni se pega, ni se saca. ¿Cuánta gente mete? ¿Cuánta gente mata? Hay bandas y partidos repartidos, repartiéndose la plata y el comercio de la lata. Acá la que más cobra suele ser la más barata. Y siempre hay un careta que tranza con una rata. ¡Basta! ¡Para! No quiero hacerlo. Necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sí, sí, esa mierda. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Tenés menos mañana que el pasado. Con la mezcla que aplicaste te arruinaste y veo el futuro muy pesado. La carne está podrida y no hay asado continuado. Perdiste el equilibrio y tu color es el morado. Llegás a las 3 creyendo que son las 10. Te gira otra vez, se activa el chip y ves. Preferiría no saberlo, pero lo sabes. Quedás de cara con lo que lees. Lo malo de la noche es que termina. Lo malo de la vida es que te arruina. Que te arruina. Lo bueno de lo malo es que te gusta. Y lo bueno de lo bueno me fascina. Esa mierda ya no me hace reír, muy pocas cosas me hacen feliz, solo esta mierda me hace subir, que estés acá y que no te quieras ir. No creo que pueda ser del todo feliz, siempre que estés pensando en mí, y yo tampoco, no. No creo que pueda ser del todo feliz, siempre que estés pensando en vos. Esa mierda, ¿para qué? Fuiste, ¿para qué naciste? Porque todo es triste. Son las preguntas que me hago todos los días. Y si no me las hiciera, tampoco escribiría. Tirando desde Argentina, ya se sabe que tengo en el ojo una espina y no me sale. Le tengo miedo a la lluvia. Le tengo miedo a tu novia. Qué idiota, ¿qué es tu novio? See you got the liquor for China. See you got the liquor slow wine, yeah. Where me game? Nah. Man, when me a lose their mind, ah. Lose their mind, ah. See you got the liquor for China. See you got the liquor slow wine, ah. Where me game? Now, I'm man a ton idiot. Everybody know I say I she do that, oi. See you got the liquor for China. See you got the liquor slow wine, yeah. Where me game? Now, man, when me a lose their mind, ah. Power the pum pum, same one hold my for ransom my body. Too close, curve and tell him say my suko I'm out it. Truthful, man them a tell me say my too cold I'm sorry. Sorry not sorry. See you got the liquor vagina, see you got the liquor slow wine ya. Yeah. Where me game now, man want me a lose their mind ah, lose their mind ah. See you got the liquor vagina. See you got the liquor slow wine. When me game now, I'm man a ton idiot. Everybody know say I she do that, oi. See you got the liquor vagina. See you got the liquor slow wine, yeah. When me game now, man want me a lose their mind. Just wanna fuck and have fun. Now you have to cut when me come. Ain't no sleepovers. Ain't no sleepovers. Call it the stalker creator. This make gangsta ton traitor. Nuff man go to them wafer. Business one a ton waiter. Nah. He must say him want fly me go London. He no care for 1 million man. He must sing 1 million song. Just be the 1 million one. See you got a little slow wine, yeah. Where me game now? Man wa major lose their mind, lose their mind. See you got a little vagina. See you got a little slow wine. When me game now, I'm man a ton idiot. Everybody know say I she do that, oi. See a cadillac of vagina. See a cadillac slow wine, yeah. Where me game now? Man, no major lose them minor. Power the pum pum. Same one hold my for ransom my body. Too close, curve and tell him some suko, I'm out eh. Truthful, man, them a tell me some too cold, I'm sorry. Sorry, not sorry. See a cadillac of vagina. See a cadillac slow wine, yeah. Where me game now? Man, no major lose their minor, lose their minor. See a cadillac of vagina. See a cadillac slow wine, where me game now? I'm man a ton idiot. Everybody knows say she do that, oh yeah. See a cadillac of vagina. See a cadillac slow wine. I give my soul. You and I can't steal the feeling, I live it. You want your way, you can't fuck it up, you know self-control. Weed it out and come get your girl, oh yeah, yeah. Call me my long, long lost companion. Prove that my love is sometimes crazy. Tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho? That That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me, set the Rezia, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang, gold hoops and a name chain, 10 boots are like 4 ranks. Missy Elliott can't stand the rain, you lame, seen the same games. Little titties and so damn pretty. Staircase in a crack filly. Little titties and a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Pop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I take it back. I'm spitting the illest man. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, make it clap. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my high, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. He's so in love, he think it's a spell. His love is too magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thoto is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's Naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' be my army. A room full of girls and we actin' real rowdy.